Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, mercoledì di campionato, non so se mercoledì della verità, ma non credo, in tutta onestà. Vostro contatto 800240024 è il numero verde, messaggi oggi è ufficiale, funzionano, 349-238-6666. Inter sotto assedio non solo da parte di del Milan e della Roma, ma anche della politica italiana, devo notare, perché questa mattina Silvio Berlusconi, sue dichiarazioni, non lo so, non lo dovete chiedere a me su Balotelli in rosso nero. Comunque ha una faccia molto simpatica, dice il premier di Balotelli, una faccia rossonera, l'ha detto a Tele Lombardia questa mattina. È intervenuto anche Bobo Maroni, tifoso rossonero, ecco le sue parole: sicuramente l'Inter vincerà il campionato, l'Inter vincerà la Champions League e la Coppa Italia, perché è la squadra più forte, ha detto Maroni. È abbastanza come gufata, ha aggiunto sempre il Bobo rossonero, ma ci sono anche gli interisti tra i politici a mettere sotto assedio la truppa di Moratti. Ad esempio le dichiarazioni di ieri di Ignazio La Russa, che dice: ho chiamato Mario per chiedergli di poterlo incontrare al termine delle elezioni. Chissà se parlando con un tifoso come sono io, ma che sono esterno alla società, non si possa recuperare la situazione. Ho detto a Mario di stare attento a non disperdere il grande affetto che ha tra i ragazzi, che adesso cominciano ad essere stufi di certi atteggiamenti. Lui mi ha detto che deve parlarmi di cose che non sono apparse sui giornali. Ci sarà qualcos'altro oltre quella catenina, non lo so, ma sinceramente non mi interessa. La cosa interessante è che l'Inter continua nella linea dura con Mario Balotelli, che questa sera non sarà della partita, non sarà di Inter Livorno. Detto tutto questo sull'assedio politico all'Inter, io devo confessarvi che ho grande stima e grande rispetto di un bravissimo collega che lavora per Sky Sport 24 e che vive tutto il giorno, non so come faccia, adesso glielo chiedo, a stretto contatto con Mourinho e con Balotelli. Massimiliano Nebuloni, buongiorno e grazie. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ma dove trovi la forza? Dimmi la verità. Tutto il giorno con Mourinho non direi, perché il livello di sopportazione sarebbe elevato, superato. No, però insomma ci vuole buona volontà, soprattutto nei mesi invernali quando fa molto freddo star fuori la pinettina per ore e ore. Comunque dai, non ci lamentiamo, chi sta molto peggio. Però raccontare l'Inter è un mestiere difficile, storicamente un mestiere difficile, te ne starei accorgendo. Sì, molto difficile, perché insomma non ci sono mai certezze, e soprattutto la vicenda Balotelli in quest'ultimo periodo lo conferma. È una squadra che chissà poi perché anche nei momenti positivi vince ormai il campionato, ha vinto il campionato gli ultimi quattro consecutivi e insomma in questa è saldamente no, fino a qualche settimana fa saldamente in testa, però c'è sempre qualcosa che non va e c'è sempre questa teoria del complotto che è stata agitata da Mourinho e non solo nelle scorse settimane. Insomma, vi ricordate quello che successe dopo un derby dominato il 24 gennaio, quando Moratti in primis parlò di vento contrario. Sì, come no. Come sta l'Inter? Non benissimo, perché è arrivato al momento più importante della stagione in condizioni fisiche un po' precarie, soprattutto in alcuni giocatori che hanno speso tanto nella prima parte della stagione, e adesso sta accusando il colpo, anche perché insomma a livello psicologico gli impegni si fanno sentire. Contro il Chelsea è stata brava a tirar fuori tutto l'orgoglio e tutte le forze che aveva, però adesso arriva il bello, perché soprattutto in campionato ci sono degli impegni che non può fallire, a cominciare dalla trasferta di sabato contro la Roma. Senti, intanto mi arrivano i messaggi, Massimiliano, tipo questo: sono Giancarlo d'Alessandria, non vi sembra che si stia esagerando con la situazione Balotelli? Striscia non dovrebbe occuparsi di roba seria, non di queste C punto non so cosa, complimenti per il programma. No, sulla storia di Balotelli si sta esagerando, sì, ma io non vorrei che l'Inter esagerasse con l'autolesionismo, non so esattamente quale sia la situazione. Adesso queste telenovelas mi interessano fino a un certo punto, però non vorrei che si cadesse nell'autolesionismo. Striscia la notizia, Striscia fa da sempre il suo lavoro, insomma, ovviamente non condannerei Striscia la notizia. Il discorso su Balotelli andrebbe così risolto dai dirigenti, dal presidente, come succede spesso da altre parti. A me viene in mente il Milan. Se fosse accaduta una cosa del genere a Milanello, sarebbe salito Galliani e il 4-4-8 avrebbe risolto tutto. Vi ricordate quello che accadde un mese fa con Calazze, che dopo quella famosa dichiarazione in cui parlava di cose sporche intorno a lui, nel giro di 2 ore ci fu un comunicato duro del Milan sul sito e un'ora dopo Calazze fece marcia indietro. Purtroppo all'Inter, come diceva Facchetti, da altre parti quando c'è una nuvola evapora, all'Inter quando c'è una nuvola diventa un temporale, insomma. Sì, cioè, credo che anche all'Inter facciano molto per alimentare questa cosa. Massimiliano, ma tu oggi dovessi pronunciarsi sulla corsa scudetto con cognizione di causa, visto che l'ambiente è nerazzurro, che è l'ago della bilancia di questo campionato, perché io sono sempre dell'idea che l'Inter vincerà questo scudetto, che solo l'Inter può buttarlo via, che le altre due sono sotto la finestra, che la Roma può saltare più in alto rispetto al Milan perché ha più qualità da molti punti di vista, anche maggiore salute, francamente. Tu credi che quello scudetto volerà dalla finestra del campionato? Non credo, alla fine, alla lunga, credo che prevarrà la forza dell'Inter, che a livello di qualità, a livello di uomini, è sicuramente superiore alla Roma e certamente al Milan. È vero, c'è la Champions League che da qui in avanti potrà in qualche modo togliere qualcosina, però alla lunga, secondo me, insomma, la squadra più forte, l'Inter, è destinata nelle prossime giornate a recuperare magari la miglior forma per alcuni giocatori, di conseguenza secondo me riuscirà, se supera indenne soprattutto la partita dell'Olimpico sabato, il più, secondo me, per quello che ho visto dall'esterno, insomma, è fatto. Senti, ti chiedo ancora questo, ma meglio con Mourinho o con Genegnocchi? Beh, a livello di simpatia 10-0 Genegnocchi. Zero, non fa neanche un gol, zero titoli, zero gol per Mourinho. Zero simpatia, sì. Zero simpatia. Soprattutto perché, insomma, in un momento come questo, secondo me, il fatto di non parlare e di chiudersi a riccio per evitare di comunicare con l'esterno, cioè, lo trovo nel 2010 una cosa proprio di cattivo gusto, non soltanto da parte sua, insomma, parla in Europa perché è obbligato da regolamenti UEFA che glielo impongono. Non essendoci questi regolamenti in campionato, non parlare, trincerarsi dietro questo silenzio che comunque fa rumore, questo silenzio polemico, secondo me è anacronistico. Non c'è dubbio, senso stampa è anacronistico sempre, anche quando lo fa un grande comunicatore che comunica anche coi silenzi, come in questo caso, come Giuseppe Mourinho. Grazie Massimiliano. Anche il Milan sotto questo punto di vista insegna. Ma naturalmente. Grazie Massimiliano, buon lavoro, un abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie a Massimiliano Nebuloni. 800 24 0024 è il numero verde. Tra poco, dopo il traffico, comincio anche a farvi sentire un po' di voci di questa vigilia di campionato, e poi già vi dico che, oltre ai vostri interventi, alle vostre telefonate, dopo le 14:30 andremo a valutare le formazioni con, penso, grado di attendibilità molto, molto elevato vista l'ora. La Juventus, come sapete, gioca domani nel posticipo a Napoli. Al volo vi faccio sentire Alberto Zaccheroni. Perché è impossibile che la Juventus l'anno prossimo si presenti al ritiro con 287 giocatori. Bisogna vedere con che allenatore si presenta al ritiro, caro Zac. Il riferimento era ovviamente alle scelte forse, per il futuro. Forse esagerate, non solo 285. E ai nomi che invece si sono fatti in questi giorni. Cioè, insomma, c'è qualcuno che tira indietro la gamba. Indietro la gamba. Aspetto che al momento io non ho constatato, perché non mi risulta, se tira indietro la gamba poi non gioca. Però, ripeto e sottolineo, fino ad oggi non è accaduto. E che casino c'è intorno alla Juventus, ragazzi, intorno e dentro, probabilmente anche nella testa di Zaccheroni, nella testa dei dirigenti, sapete, del battibecco di Bettega con Sky, con l'inviato di Sky sulla partita di Genova, delle mille voci che ci sono intorno a quella panchina, insomma, un momento difficilissimo. Io ho sempre pensato che la Juventus alla fine ce l'avrebbe fatta a timbrare l'obiettivo minimo del quarto posto, adesso qualche dubbio in più, giorno dopo giorno, ce l'ho. Tra i vari messaggi, un commento su Partizan che sbanca la terra del Maccabi. Maurizio Pinerolo parla di basket, lo rinvio a venerdì a Parlaspicchi per parlarne con maggiore ampiezza, anche perché avremo in mano il risultato anche di gara 2. Ieri sera, a momenti, anche il Real Madrid fa il colpaccio a Barcellona, non è riuscito per un pelo, ma sarà una serie durissima e tiratissima. Quanto al Partizan non finisce più di sorprendermi. Adesso però voglio tornare al calcio con gli ascoltatori. C'è anche chi domanda, sempre via SMS, di giravoce che Mourinho e Balotelli siano venuti alle mani leggendo. C'è qualcosa di vero? Fabio da Milano. Non è più presente Massimiliano Nebuloni, però insomma la storia mi sembra ormai abbastanza nota. Non risulta ci sia stati, siano venuti alle mani i due, risulti invece che sia stato un litigio piuttosto pesante a parole, e ci sono state anche delle minacce di passare alle vie di fatto, però la dinamica chiara degli eventi è confinata appunto in queste, che rimangono delle supposizioni, anche se con un discreto grado di attendibilità. Luca da Torino, Giuseppe dalla provincia di Enna. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno. Non so da dove iniziare, perché forse una piccola risposta ce l'ho io, perché c'è sempre polverone nell'Inter. Visto che non si hanno argomenti, visto sì, che insomma in Italia va abbastanza bene qualche anno, evidentemente la stampa, i media e l'informazione, a parte la vostra redazione sportiva che è, si vede che è protetta da un... molto ben protetta e quindi osserva certe regole deontologiche, insomma l'informazione sull'Inter non è per niente obiettiva, si scatenano polveroni da niente. Ma mi sembra Luca, non lo so se da niente, io credo che insomma l'Inter sia molto cresciuta anche sul versante societario, non è più come in un passato ormai abbastanza lontano, però insomma non mi sembra che sia niente, perché niente Balotelli, un'emergenza clamorosa di attaccanti che anche oggi sta in castigo, che Striscia la notizia va a pizzicarlo non a caso e cresce il polverone intorno, non mi sembra che sia niente, Luca, non mi pare. Dunque, poi possiamo discutere sulle modalità di gestione, ma niente no. Sì, vabbè, ma io non mi faccio la testa, perché se è vero, e spero tanto che già se ne parla da un po', che si può fare, anche perché forse Balotelli è l'unica sua, visto il carattere, visto il tipo, il suo modo di fare, di giocare, è forse più adatto, il posto più adatto all'Inghilterra, se si facesse questo scambio ipotetico con Fabregas, io già mi leggo i baffi, insomma, sì. Perché non sarebbe mai, anche perché poi... cioè si pompa la notizia che Balotelli debba andare a Milan, quando io non voglio fare il professore, però Balotelli diciamo è un pupillo, è un altro figlio di Moratti, come lo era Recoba. Sì. Quindi, ma questo è verissimo. Questo è verissimo, ma soprattutto mi pare, facendo un po' di conti e vedendo come sta progettando il futuro il Milan, no, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, il dopo Favalli, 38enne che a fine carriera, sarà Yepes, anni 34, quindi è chiara la politica del Milan che andrà avanti nella sua, su questa sua linea di austerity, quindi Balotelli costa un sacco di soldi, io non credo francamente che potrà attraversare il naviglio al di là delle simpatie di quando era bambino, al di là di tutte queste cose. Penso che insomma Moratti non si priverà di Balotelli, non vuole, da questo punto di vista lei ha ragione, non vuole privarsi di Mario Balotelli, e tra parentesi fa benissimo, perché è un talento mostruoso quello di Super Mario. Però io credo anche che se Mourinho resterà su quella panchina, e non sono così convinto che resterà sulla panchina dell'Inter, però restando Mourinho mi sembra difficile un'altra stagione come questa, no? di convivenza tra i due. Giuseppe, provincia di Enna, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io volevo intanto fare una premessa, ecco, sono un tifoso juventino e non vedo perché una persona che abita in Sicilia non possa tifare per la Juve, questo mi riferisco a un telespettatore, che qualche radioascoltatore di qualche giorno passato. Comunque chiusa, ecco, sta premessa, volevo fare due domande. Uno proprio riguardo sulla Juve, non riesco ancora a capire il perché dalla proprietà non si si dica chiaramente che si è sbagliato questo famoso progetto. Cioè, nessuno dice abbiamo sbagliato il progetto, a partire dallo staff tecnico, preparatore atletico. Beh, ma detto mi sembra evidente, no? Mi sembra che stia nei fatti, che stia nei fatti la, sì, gli errori stiano nei fatti. Una volta ammesso, ma sì, una volta ammesso, insomma, mi sembra un po' la storia Balotelli, ci vogliono le scuse. Ci vogliono le scuse davanti a tutti, davanti al gruppo, c'è questo muro contro muro. È evidente, no, che la Juventus ha sbagliato questo progetto, ha buttato via molti soldi e molto tempo. Soldi e molto tempo in questa ricostruzione, pagando, come è ormai acclarato, dei difetti di competenza da parte di chi l'ha guidata, no? Sì, sicuramente. L'altra domanda era proprio a proposito di Balotelli e di scuse, cioè non capisco perché una persona come Balotelli debba chiedere scusa a una persona speciale che invece prima dovrebbe chiedere scusa a Ranieri, Ancelotti, Lo Monaco, Marino, Mazzarri, De Laurentiis, cioè. Sì, però lì stiamo parlando. Una lunga lista, ecco. Sì, però lì siamo all'interno dello stesso gruppo, mi sembrano due casi un po' diversi, no? Cioè, uno sono. Ma è una mancanza di rispetto. Sì, ecco, ma che io credo che, insomma, adesso non è che ci voglia Balotelli in ginocchio sui ceci, semplicemente tra persone adulte. Le une lo sono, quelle Mourinho, Moratti, eccetera, l'altra evidentemente ancora non lo è, Mario Balotelli. Io credo che si potrebbe arrivare ad una soluzione di questa vicenda, credo, poi ripeto, non so di preciso cosa è successo in quello spogliatoio, conosco l'atteggiamento della squadra che ha preso le distanze in maniera, dopo questa gag di Striscia Notizie, in maniera si legge ancora più evidente da Balotelli. Insomma, credo che con gli obiettivi che ci sono in ballo e con i trofei che ci sono in ballo sarebbe bene almeno a guardarla da fuori mettere la parola fine a questa vicenda. E non è detto che in uno spogliatoio si debba essere per forza amici tra professionisti, perché questo non succede, perché lo sappiamo benissimo, però si dovrebbe provare a remare tutti nella stessa direzione e raggiungendo i risultati che sono da raggiungere. Non è detto che si debba uscire insieme o andare a cena insieme, questo non è scontato, però anche l'autolesionismo nel professionismo mi sembra un po' sospetto, un po' discutibile. Prima di Giacinto e Roberto, io voglio cominciare a farvi sentire un po' di voce a partire da chi insegue, spera invece che la vicenda Balotelli vada avanti ancora per un bel pezzo. Leonardo. 9 partite per superare e mantenere ci vogliono tante cose. Credo che per 9 partite, sono 27 punti, partite decisive per tutti, chi si salva, chi va là, chi deve vincere, per tutti, per quello sono partite tirate e ci vuole sicuramente tutto. Io sin dall'inizio sinceramente l'ho sempre pensato che questa squadra, avendo tutto a disposizione, poteva dire la sua. Io credo che fino adesso abbiamo detto la nostra e queste partite, diciamo, diranno se abbiamo questa possibilità vera di fare lo sprint finale. Io credo di sì, e basandomi tanto a questo spirito, a questa voglia, perché la gente si sta superando in ogni partita, tutti, e quella è una cosa veramente positivissima. Inseguitore 1 Leonardo, inseguitore 2 a stretto giro di posta Ranieri, che giocherà a Bologna con la sua Roma questa sera. I pericoli sono appunto che ha dei giocatori in grandissima forma come Boucher, come Adailton, come Zalaieta, tutta la squadra me la danno in un gran momento, sono molto compatti, molto reattivi, cercano di tirarti la trappola di farsi attaccare per poi ripartire in contropiede, per cui è una partita che dobbiamo interpretare bene e essere molto attenti sempre. È giusto che la città sogni, e l'ho detto più volte, noi dobbiamo essere la gente che fa sognare i propri tifosi, però fermiamoci là, adesso pensiamo a questa partita col Bologna, perché sarà una gara molto ma molto difficile. Per noi non c'è il rischio di pensare all'Inter, noi siamo super concentrati al Bologna perché abbiamo un avversario molto ma molto pericoloso che sta in un buon momento di forma. Questa era Claudio Ranieri. Giacinto da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno, signor Genta. Grazie a lei per farmi intervenire. Sono un tifoso juventino abbastanza depresso, direi. Ma se Zaccheroni ha appena detto non siamo depressi, dobbiamo ripartire. No, assolutamente. L'ha detto Zac, eh? Sì, no, Zaccheroni... Quando si perde si tende a pensare in negativo, ma bisogna trovare subito l'equilibrio psicologico e ripartire, ha detto. Penso che sia uno dei più grossi problemi della Juventus, l'equilibrio psicologico. Vince una partita, ne perde un'altra. Credo che il più grosso problema... In questo momento, per raggiungere la Champions, ci vuole continuità, quella che non ha la Juve, quindi sono abbastanza pessimista su questo. Vedo squadre un po' più quadrate, concentrate, insomma, non la vedo bene. Io vorrei purtroppo fare un salto un attimo indietro, un secondo solo su Calciopoli, per un piccolo particolare. E quando scoppiò lo scandalo nel 2006, giustamente qualsiasi giornale da Famiglia Cristiana in giù o in su pubblicava intercettazioni, articoli, una cosa veramente allucinante. Adesso che si sta verificando una cosa particolare, io ho letto un po' tutto Sport stamattina, non si trovano le telefonate dell'Inter, non si trovano altre telefonate, nessuno sa spiegare dove siano finite. Sono notizie che nessun giornale pubblica, cioè una squadra è stata distrutta, e noi siamo in questa situazione semplicemente per Calciopoli, è stata distrutta da un'indagine fatta in maniera, che dire superficiale è un eufemismo, e nessun organo di stampa si occupa di dire oggi che è stata fatta un'indagine in una maniera vergognosa. È stata fatta una campagna di stampa allucinante in quel periodo, mentre ora non si cita un articolo da nessuna parte. Per un tifoso juventino questo, per qualsiasi tifoso o per chi chiunque si possa trovare in una situazione di subire un'indagine, io non dico ingiusta, ma superficiale, per un tifoso juventino adesso è veramente ancora più... castrante di quando successe. Io volevo solo far notare questa piccola cosa. Ho fatto bene, io l'ho lasciata parlare. No, ma non c'è problema. Io credo però che sia il momento di voltare pagina. Io direi, ma perché se non si esce da... Se si continua a tornare lì e dice tutto è partito da lì, ma lo pensano tutti i tifosi juventini che si sentono perseguitati, no, da questa vicenda... E fino a quando i tifosi juventini, la Juventus stessa si sentirà perseguitata da questo suo passato, io credo sarà difficile ricostruire una squadra e un club. Io penso, insomma, sarebbe quasi ora di voltare pagina, no? Siamo al mondiale successivo, siamo al 2010. Non voglio dire quel che è successo, tutto in cavalleria, no, possiamo anche continuare a parlarne se c'è un pubblico interesse a notizie di questo tipo che vada al di là degli schieramenti dei tifosi, non lo so. Io francamente credo sia il momento di provare a ricostruire una squadra. A ricostruire un club sono stati bravissimi, dal punto di vista economico e finanziario sono stati bravissimi. Adesso si tratta di ricostruire una squadra e forse è il caso di smettere di sfogliare quelle pagine di intercettazioni. Anche diversi messaggi, 349-238-6666. Frank, ma dai, questo Balotelli neanche fosse Gesù Cristo, vabbè, bravino, ma farne un campione ce ne vuole, non esageriamo, scrive un ascoltatore. No, Gesù Cristo no, neanche Gesù Bambino, lascerei stare queste cose, però un giocatore che ti cambia le partite, già abbastanza sì, direi. Ho visto pochi istanti fa su Sky, per caso, quel gol fatto all'Udinese, tra l'altro in un momento in cui l'Inter era chiamata a rispondere ad un momento di grande difficoltà, ad una settimana di grande difficoltà come quella seguita, quella bizzarra partita contro la Sampdoria. Ebbene, ho rivisto quel gol, palla praticamente palleggiata, schiaffeggiata con la suola e destro al volo. Beh, quelle cose non le fanno i giocatori normali, a mio parere. Roberto, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno, io volevo chiamare per la questione Balotelli, volevo intanto fare un inciso, ho sentito l'ascoltatore di prima, dico ci sono ancora tanti orfani di Moggi in giro. Sì, basta. Non ricominciare fa male, va bene. Comunque io ogni mattina mi sveglio e mi domando, ma per quanto tempo dovremmo parlarne ancora? No, perché io francamente sono un po' stufo, ripeto, ci fossero notizie degne di note di rilievo al di là, ripeto, delle barricate del tifo, sarebbe stupida la stampa, sarebbero stupidi gli organi di informazione a non occuparsi di tali questioni, quindi non credo che ci sia questa stupidità così diffusa, credo semplicemente che il pubblico interesse a notizie di questo tipo sia un po' scemato, ripeto, al di là dei bastioni del tifo. Prego. Balotelli, io intanto dico cui prodest tutto questo? Evidentemente c'è chi ne giova e abbiamo detto ci sono delle squadre che inseguono, certe squadre che per le quali il campionato era finito e che in una situazione un po' particolare, già spesso sottolineata, sono riuscite a essere a un punto dall'Inter. Balotelli è un talento enorme, ma quello che mi fa un po' ridere di tutta questa vicenda è Moratti è sempre passato per il classico presidente mollaccione, dà sempre ragione ai giocatori a costo di così di sbugiardare i propri allenatori, i propri dirigenti, una volta tanto che l'Inter mantiene un atteggiamento fermo. Io sono un estimatore enorme di Balotelli, secondo me già attualmente con la testa che ha è uno dei più forti attaccanti al mondo, quindi non è che dico, come dice qualcuno, è un giocatore già determinante, e mi fa rabbia pensare che sia ai box invece che stasera in campo contro il Livorno. Però io dico che se l'Inter ha un certo tipo di presa di posizione e di linea, è giusto che la mantenga. Probabilmente si dice ai nostri figli, però questi non sono nostri figli, sono professionisti, e io credo che in un ambiente professionistico, il professionismo è esasperato, arrivare a questo tipo di scontro a costo di rimetterci sia abbastanza, finisca per confinare nell'autolesionismo, ed è questo che fatico a comprendere. Ora, fuori una volta, fuori due, fuori tre, va bene le scuse, mica le scuse, insomma io credo che in un ambiente di lavoro, in un ambiente professionistico, si debba arrivare a fari spenti e senza tutto questo clamore ad una composizione della vicenda. Poi le parti sono espresse tutte, no? Mi sembra chiara la situazione, tutti con Mourinho, la squadra, Moratti, grande manifestazione di solidarietà all'allenatore, come dire ok, in questa vicenda tutti con lui, perché lui ha ragione, tu hai torto, adesso tu devi presentare scuse formali davanti a tutti quanti. Però mi sembra un atteggiamento a lungo andare molto autolesionista. Torno a ripetere che in un ambiente, e anche qui mi ripeto, iperprofessionale, iperprofessionistico, è un po' così bizzarro, un po' anomalo, no? Mi sembra, non trovo grandi riscontri in altre realtà professionistiche. Detto questo, in uno spogliatoio, ripeto, non bisogna per forza essere amici. Basta comportarsi appunto in maniera professionale. Oggi è come se fosse sabato, no? Un sabato un po' strano. Giovanni Capuano lo sentiamo ogni volta al sabato per raccontarci le ultime sulle formazioni. Preview sulla Serie A. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Carlo, buon pomeriggio. Allora, partiamo dall'Inter, proprio dall'Inter, stasera col Livorno. Sì, allora partiamo dall'Inter. Come ti raccontava prima Nebulone, è difficilissimo in queste settimane provare a bucare il bunker di Appiano Gentile. Diciamo che la certezza è che Milito certamente non verrà rischiato, perché è troppo importante quello che aspetta l'Inter anche rispetto al peso specifico dei tre punti in palio questa sera contro il Livorno. E poi tra l'altro Quaresma, nelle ultime due volte che è stato schierato da Mourinho, ha dato qualche risposta, non è stato certamente un giocatore inutile, quindi oggi potrà trovare spazio dal primo minuto, così come probabilmente Chivu, in modo da dare a Mourinho la possibilità di avanzare Zanetti sulle linee di centrocampo. E poi nel corso della partita, visto che ci sono Sneijder infortunato per precauzione e Stankovic squalificato, dare qualche minuto di ricambio a uno dei centrocampisti in vista sempre di ciò che arriva. Quindi diciamo che sarà un Inter B con però l'attenzione a non perdere gli equilibri, anche perché pesano troppo questi tre punti. L'Inter si è costretta a doverli inseguire a tutti i costi e quindi non ci possono essere scelte di turnover estremo. Scelte di turnover estremo non ne farà neanche Cosmi. Sull'altro fronte, Cosmi che si gioca la panchina, se perde stasera, soprattutto se perde male, domani non sarà più l'allenatore del Livorno. Sì, se perde male, ma comunque diciamo che Cosmi giocherà stasera contro l'Inter, così come ha giocato nelle altre occasioni contro le grandi, quindi c'è spazio per i due attaccanti, per il trequartista. Dobbiamo ricordare che tra i pochissimi punti che ha fatto il Livorno in questo girone di ritorno, una buona fetta sono stati conquistati proprio contro le squadre che stanno correndo per lo scudetto, quindi questo è un buon precedente per Cosmi. Questa sera ci sarà Daniele Vicius con Lucarelli e ci sarà Di Gennaro, un ex milanista, dietro le due punte per cercare di dare un po' di vivacità a un Livorno che giocherà comunque con almeno 8-9 uomini indietro la linea della palla, quindi comunque votato alla difesa, su questo non c'è dubbio. Certamente. Quanto alle seguitrici, Giovanni, in Milan si dice che si legge che ci saranno due mediani in campo, Ambrosini e Gattuso, questa sera a Parma. Si legge anche che verrà riformata quella strana coppia, secondo me molto mal assortita, tra Borriello e Huntelaar, o magari c'è Mancini. Guarda, anche qui si scopre solo all'ultimo momento, però c'è qualche indizio che può far capire quali possono essere le scelte di Leonardo, scelte che secondo me portano più a Mancini che a Huntelaar, perché in realtà il Milan, con i tanti attaccanti, con le due punte Huntelaar e Borriello in campo, è un Milan che, pur essendo nel 2010 la squadra che ha segnato più reti di tutte, nelle ultime quattro partite ne ha fatto soltanto due, cioè ha perso un po' di quegli equilibri. Ieri in parte Leonardo lo ha anche detto, dicendo che Mancini può essere un ottimo vice Pato, e quindi diciamo, diamo come favorito Mancini, anche se certamente l'ipotesi di vedere Huntelaar in campo o lo stesso Inzaghi insieme a Borriello nel corso della partita non è un'ipotesi da scartare, considerando comunque la necessità che ha il Milan di vincere. Milan che ha problemi soprattutto dietro, dove gioca certamente Favalli e insieme a Thiago Silva c'è qualche elemento di preoccupazione, perché l'attacco del Parma è un attacco comunque molto rapido, c'è Biabiani, e il Milan nelle ultime due settimane ha dimostrato di soffrire con questa coppia centrale, soprattutto gli inserimenti centrali, quelli che vengono da dietro fatti in velocità, in questo soprattutto gli attaccanti del Napoli, ma anche in parte quelli del Chievo, sono stati bravi nelle ultime due giornate a scoprire un po' il lato debole di questa squadra. Un attimo di pazienza, dopo il traffico parliamo invece della Roma, ma soprattutto Roma che non avrà Totti questa sera a Bologna, ma Totti ci sarà sabato sera all'Olimpico contro l'Inter, secondo me ci sarà. Dunque Giovanni, sarà l'ultima Roma senza Totti? Ma io credo proprio di sì, non tanto per le condizioni di Totti, che certamente verrà reso disponibile per la gara di sabato, poi la condizione è tutto un altro discorso, e le ultime due mezze partite di Totti dovrebbero da questo punto di vista essere indicative per Ranieri, però io credo che sia impensabile per l'ambiente romano arrivare a questa partita che diventa la partita della vita, una partita attesa dal precedente sprint scudetto con l'Inter, quasi come una sorta di occasione unica di rivincita. Beh, io penso sia impensabile arrivarci senza quel totem che è Totti. Intanto questa sera la Roma recupera i quattro squalificati di sabato scorso con l'Udinese, quindi non è più in situazione di emergenza. In realtà dal punto di vista delle scelte, soprattutto davanti, Ranieri preferisce dare continuità a quelli che hanno giocato nelle ultime partite, quindi ci sarà di nuovo Mennes dietro alle due punte, Toni e Vucinic. Attenzione nella Roma al pericolo giallo, un discorso che in realtà interessa anche l'Inter, cioè il pericolo diffidati, perché le due squadre complessivamente hanno 8 giocatori che sono a rischio cartellino giallo, ce ne sono 3 nella Roma, sono tutti di un certo peso, che sono Mennes, Perrotta e proprio Vucinic, che in questo momento è un giocatore imprescindibile, certo, per Ranieri, e ce ne sono 5 per l'Inter, a parte Sneijder che questa sera non gioca, gli altri giocano, sono Maicon, il capitano Zanetti, Lucio ed Eto'o, quindi il rischio di perdere qualcuno in vista della sfida dell'Olimpico di sabato sera è un rischio che non è da escludere. È confermato l'impiego di Mexes, che torna centrale titolare al posto di Juan, che invece osserva un turno di riposo a Bologna perché è squalificato. Giovanni, io ti chiederei anche qualcosa su un confronto salvezza caldissimo, Lazio-Siena, oggi sottolineava cugini contro, sappiamo che c'è una parentela alla lontana tra Lotito e Mezza Roma, che peraltro nemmeno troppo cordialmente si detestano. È indubbio però che Lazio-Siena sia la partita salvezza, con tutte le maiuscole, e io sono anche per la verità molto curioso di rivedere la Lazio dopo il poco attendibile testa di Cagliari, perché non sono convinto che la Lazio sia fuori dal tunnel, sia guarito, sia in crescita. Allora, guarda, la Lazio cambia poco, è vero che il test di Cagliari probabilmente è stato poco probante, però è vero che ha consentito a Reia di tornare alla vittoria e dunque è fondamentale. Cambia poco, dietro cambia perché è obbligata dalla squalifica di Biava e c'è il ritorno di Radu, che quindi gioca sulla linea 3, gioca con il 3-5-2 questa sera la Lazio. L'altro cambio è in attacco, Floccari si è fatto male, si ragiona verso un recupero in vista del posticipo di domenica sera a San Siro contro il Milan. L'assenza di Floccari rilancia però le quotazioni di Zarate, che dunque sarà a far coppia d'attacco insieme a Rocchi nel duo che cercherà di scardinare la difesa di un Siena che nelle ultime 6 partite è secondo in classifica con 12 punti, quindi viaggia a una media da Coppa UEFA dietro soltanto al Milan, che nelle stesse 6 partite di punti ne ha fatti 14. È una squadra che sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo, anche perché in realtà pare avere poco da perdere, anche se la classifica a questo punto dice che può giocarsi tranquillamente la salvezza insieme certo. alle altre. Gioca con un modulo questa sera Malesani abbastanza coperto, un po' lontano da il Siena più aggressivo che ci ha fatto vedere in queste settimane. Attenzione però, perché si tratta in realtà di un 4-1-4-1 abbastanza mascherato, perché c'è una sola punta Maccarone, ma nei quattro di centrocampo, a parte Codrea che sta davanti alla difesa, ci sono anche Reginaldo, Vergassola e Ghezzal, che sono comunque giocatori che hanno molte qualità offensive, certo, quindi certo. attenzione. Ghezzal e Reginaldo in particolare sono due attaccanti in maschera, fai bene a sottolinearlo. Grazie Giovanni. Ci grazie sentiamo sabato pomeriggio al più tardi per spiare la buca della serratura, quello che sarà Roma-Inter e soprattutto il turno del weekend alla luce di quanto succederà oggi. Io credo poco, io sono dell'idea che oggi succederà ben poco e che non mi sorprenderei se questa sera alle 22.45, recupero compreso, la classifica fosse identica a quella di adesso, almeno in testa. In coda questo Lazio-Siena è importantissimo, perché è vero che Siena, insomma, come diceva Gianni Capuano, sembra quasi andare senza aver nulla da perdere. In realtà da perdere ha molto, perché dovesse vincere la partita di oggi si porterebbe ad un solo punto dalla Lazio. E, insomma, sia una rincorsa meravigliosa quella della squadra di Malesani. Giacomo, Milano, buonasera. Buongiorno. Eccomi qua, buongiorno gente. Premesso, velocissimo, condivido e sottoscrivo quello che ha appena detto qualche minuto fa a proposito di Balotelli e quindi della politica autolesionista della società a lungo andare. A lungo andare ci stiamo già accorgendo, però le aggiungo, in questo frangente non sarebbe stato utile, opportuno da parte della società magari sanzionare con una bella multa di un mese di stipendio e metterlo in squadra comunque? Perché intravedo il rischio, e qui decido il suo parere, intravedo il rischio caso Pandev, se alla lunga questo rimane fuori squadra, essendo in piena salute, essendo in piena salute, eccetera, eccetera, e avendo dietro un certo procuratore, potrebbe fare questa a lungo andare, ma è già un mese che è fuori circa, sì. a lungo andare questo potrebbe avere ragione da parte di qualche giudice che visto per mobbing lei dice, no guardi, non credo, questo sarebbe spingersi un po' oltre. Poi sui modi per risolvere questa vicenda, multa o non multa, io non saprei, però faceva bene prima Massimiliano Nebuloni a ricordare gli ultimi problemi che ci sono stati in casa Milan, no? È chiaro che il peso di Calazze non è nemmeno paragonabile a quello di Balotelli, e che i riflettori che stanno intorno al pur bravo Giorgiano, che qualcosina ha vinto pure con la maglia del Milan, qualcosina, vi ricordate, no? Quel caso è stato smontato in 30 secondi. Calazze che dice cose poco chiare, da quando abbiamo perso in Svizzera la partita di Champions League non ho più messo piede in campo, non mi vogliono più, eccetera eccetera. È durato un pomeriggio questo polverone fino alla pubblicazione sul sito del Club Rossonero della lettera di scuse di Kaka Calazze, che ha ritrattato tutto, no? Quindi mi sembra che le modalità per gestire questi casi, che pure esistono, lo stesso Inzaghi, insomma, credete che Inzaghi sia tutto contento della stagione che sta disputando? Al più dice sono pronto a rinnovare il contratto ma non voglio più soffrire così tanto. Questo è il massimo dello strappo che crea Filippo Inzaghi. Quanto a una replica, un replay del caso Pandev in casa Inter per Balotelli, proprio non credo. Proprio mi sentirei di escluderlo. Giovanni, provincia di non so dove. Di Roma. Buonasera Garanzini. No, non sono Carlo Genta, ma è uguale. Scusi. Volevo soltanto fare un parallelismo appunto tra il caso Inter e il caso Lazio. Cioè, ma a causa del mancato buonsenso delle due società, probabilmente la Lazio si ritrova in B e l'Inter non vincerà lo scudetto. Non so se ci può essere un, come dire, un parallelismo tra le due situazioni, appunto tra i casi Pandev Ledesma e il caso Balotelli. Ma proprio per questo mancato buonsenso e il fatto di non voler cedere, probabilmente, ripeto, le due squadre si ritroveranno l'una in Serie B e l'altra senza lo scudetto. Ma io non io, penso. Da tifoso romanista me lo auguro. Sì, lo so, capisco. Bravo. Per quello che è così deciso nel dire una senza lo scudetto e l'altra in Serie B. Esatto. In realtà io continuo a pensare che al di là di tutto, pur complicandosi un po' la vita, ma non solo, perché non dobbiamo pensare che l'Inter abbia avuto questi problemi soltanto perché c'è questa grana interna, l'Inter ha questi problemi per svariate ragioni, ha questi problemi per svariate ragioni. Ciò nonostante continuo a pensare che vincerà lo scudetto, ma non lo dico per allinearmi alle posizioni di Maroni e per fare il gatto nero, non me ne importa nulla, semplicemente io penso che, essendo così più forte ed essendo la concorrenza così poco all'altezza, soprattutto per quanto riguarda il Milan, credo che l'Inter alla fine, pur attraversando queste difficoltà, porterà a casa lo scudetto. Quanto alla Lazio non lo so, quanto alla Lazio vi dico la verità, fino a qualche settimana fa, insomma, leggevi l'organico, al di là del indubbiamente i casi Ledesma e Pandev sono il peccato originale di questa Lazio, però sono curiosissimo di rivederla questa sera all'Opera, perché continuo a pensare che la partita di Cagliari non sia così attendibile sullo stato di salute reale della Lazio. Comunque questa sera 20.45 scopriremo un po' di cose, la giornata di quelle interessanti. Io vi ricordo il cartellone Atalanta-Cagliari. C'è Bari-Sampdoria con Cassano che torna a Bari dopo aver segnato il gol della vittoria alla Juventus. Credo che il miglior momento per tornare nella sua città, anche alla luce della classifica della Sampdoria, che tra l'altro ha rotto gli indugi, no? La Champions League la vogliamo e come, vogliamo rimanere in corsa fino all'ultimo, e d'altra parte se questa Juventus punta al quarto posto, non vedo perché non dovrebbero puntarci con convinzione anche Palermo e Sampdoria. C'è poi Catania-Fiorentina, c'è il Palermo di scena a Genoa, altra partita cruciale, appunto una corsa al quarto posto. Detto di Inter-Livorno, Lazio-Siena, Parma-Milan, quindi Udinese-Chievo, domani sera Napoli-Juventus, con la Juventus che si è davvero cacciata in un brutto guaio. Domani avremo tutto il tempo per parlare delle gare di stasera, dunque l'appuntamento è domani alle 2. Io ringrazio Franco Piantanida per il lavoro in redazione, Carmelo Lauricella in regia, c'è anche Flavio Suardi in redazione naturalmente. A domani.